Thank you. canta un museo Vittoria nuova stanza da bere non è tardi nessun timor il conte rincaserà col sole e l'ultima sua notte di libertà domani prende moglie di già la principessa Fedora Romazzos quella vedova fretta ricca passabilmente 14 milioni salute il tempo il conte un capo scaglio le donnine le carte le bottiglie i cavalli niente si stava freschi si stava freschi che come si alzori al padrone alla scuola alla bocca a lui silenzio ricapitano no La principessa su sveglia di padrone. Regina e assai la finalmente. La camera del conte. Vladimiro. Federico. Principessa, sì. Dottore, una disgrazia, un assassino, conte, o bella. O medico, il nome del vero. Eccomi. Il signore Giovanni di Sirie. A questo. Ha detto all'ambasciata di Francia. La ringrazio. Tutto il papà si stesso mi comprende. Io come prima, come si crede prima, sono l'uomo della mia, sono l'uomo della sua vita. Ora dottor, venite. Lasciate che mi sento. Quel uomo orrendo aveva lasciato sul

s'inseguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo! L'ombre si sono riunite. L'han preso. Signora. principessa ci fate languir. Una porta la sua croce. Vedete, anch'io è un talismano. In questa antica croce era una mia reliquia. Io mi deposi un fardo che sono ogni palo. Per voi o per gli amici? Chi lo sa? Grazie! Grazie! mezzanotte. E domani? Poi li vedremo allora. Entro bordo. Addio, addio. Oh. schiacciato.